qui adesso entriamo nel merito del tema. Pregherei la professoressa Annoni di venire al tavolo. La professoressa Annoni tratterà la sua relazione, i precedenti settecenteschi, la Lombardia austriaca. Dopo breve pausa comincerà poi la discussione. Non era necessario. Austria e province italiane, i precedenti settecenteschi. Questo è il tema delle parole di oggi. E direi ha ragione, perché entro le grandi linee dello sviluppo storico dello Stato italiano e di quello linguistico, entra chiaro un unitario impulso di trasformazione che guidò il nascere della nuova monarchia asburgica. La Lombardia presentava una sua ben peculiare fisionomia e sociale e politica. Lo Stato di Milano si presentava al nascere nel secolo XIX quale provincia più alta. È via radio, ma appunto per questo sono meccanismi un po'. Dunque, lo Stato di Milano si presentava al nascere nel secolo XVIII quale provincia di una vasta monarchia multinazionale che alle altre province si affiancava, gelosamente conservando le proprie strutture sociali e amministrative, e ben poco erano stati insidiati i larghi ambiti delle sue ovunque. Il potere amministrativo, la regolamentazione della vita interna dello Stato era quasi ovunque in mano a gruppi di famiglie che si erano chiuse cristallizzando a difesa di una richiesta di ricambio da una questione diretta a ottenere una regolamentazione dall'alto. Ceti fallimenti, ceti artigianali e mercantili. Il patriziato, pur ancorando la sua origine borghese, solo lentamente filtrò attraverso le generazioni l'ingresso al potere dei nuovi ricchi o dei nuovi nobili. Le corporazioni esclusero sospettose nuove attività e nuovi membri, le camere mercantili regolarono con piena autonomia la vita commerciale e le possibilità di sviluppo economico dentro e fuori lo Stato. I ceti si presentavano compatti esercitando collegialmente il potere delle magistrature al vertice dello Stato, a capo delle città, nei contadi che intorno alla città si erano aggregati nel momento dell'espansione dei grandi comuni. Ceti che questa collegialità di poteri sembravano riflettere nella poliedricità dei compiti che ai propri magistrati e uffici assegnavano. Compiti individuati non dal tipo. No, allora pregherei casomai la professoressa di spostarsi qui a vedere se posso approfittare di questa breve interruzione qui gentilmente spaccami ho preso qua la biblioteca di Villa Tamposi quel volume di in tedesco delle arti quello è qui io. Tocca a me chiedere scusa al posto dell'apparato. Succede molto spesso. Ecco, forse però lo tengo anche più vicino. Perché allora. No, no, tengo io. Forse ci siamo così, no? Sì, un po' più vicino. Compiti delle magistrature che erano individuati non dal tipo ma dal settore di intervento. Per ogni settore si formavano nella stessa magistratura autorità normativa e compiti esecutivi, spazio decisionale e ambiti giurisdizionali. La complessità e la quasi totalità dei poteri che si concentrava in ciascuna di esse ne accentuava la forza e la possibilità di autonomia d'azione di fronte al potere superiore che pur sorrente ne confermavano e designava i membri e che attraverso esse doveva mediare la sua azione di governo. Tale potere dei ceti, tale diffusa difesa dell'autonomia di azione delle magistrature collegiali, fu fatto politico diffuso in varie terre d'Europa e fenomeno comune nell'Italia settentrionale e centrale. E ne potrebbe apparire ovvio e superfluo il ricordo se troppo sovente non ci trovassimo di fronte alla confusione tra patriziati e aristocrazia feudale quando si parla dei compiti e dei poteri della nobiltà in questi secoli. Né solo a Milano o nelle maggiori città lombarde appare questa consolidata potenza del ceto patrizio che collegialmente detiene le leve del potere e dentro il proprio gruppo sceglie gli uomini designati pro tempore ad esercitarlo. La tendenza a costituirsi e all'imporsi di gruppi decorionali si è ripetuta nelle cittadine minori. In ogni piccolo centro che avesse raggiunto un proprio momento di splendore o di significato tra Medioevo e Rinascimento. Anche nelle terre più periferiche e lontane, le larghe reinfeudazioni di questi secoli, che sembrarono sommergere non solo le campagne, ma talora le stesse minori città, non riuscì ad incidere profondamente mutando le antiche strutture al vertice dei comuni e le vicinie che si erano modellate nella composita eredità dei secoli. Le città per lo più cercarono di scattarsene, rivendicando il diritto di una propria prelazione rispetto al nuovo feudatario acquirente. Le campagne accentuarono entro il feudo e contro i frammentari diritti feudali l'autonomia e l'ampido vario di potere dei propri consigli, la forza decisionale dei propri consorzi di vicini. Sì, che il fenomeno aristocratico e feudale, che pur fu tanto appariscente anche in Lombardia con la larga diffusione dei titoli nobiliari, in realtà fu, più che non fenomeno politico, fenomeno sociale ed economico. Quale fenomeno sociale rispose al gusto e talora alla necessità del titolo d'onore che appariva dominante in tutta la vita europea, ma non aggiunse in loco potere politico ai patrizi che pur in molti se ne tornarono, né lo perse ai nuovi ricchi che ritrovarono la consacrazione sociale della propria potenza economica. Quale fenomeno economico, esso si presentò vantaggioso ai sovrani spagnoli come quelli austriaci che nella disperata ricerca di denaro si offersero distributori di titoli e regalie a tariffa o all'incanto. E vantaggioso fu pure per l'acquirente che investì capitali non solo per adornarsi di uno status symbol, ma per comperare alcune regalie proprie e improprie, proventi di dazi, di diritti di prestino, di pesca, appalti di giurisdizioni. Diritti che avrebbero continuato a fruttare nel tempo. A fianco dei grossi appalti, dei dazi, dei monopoli dello Stato, il sovrano in tal modo cedeva, capitalizzando il reddito presunto al 3-3,5%, attività e rendite amministrative disperse minori che egli rivendicava per sé, ma che per essere sfruttate avrebbero richiesto un'articolata struttura burocratica quale ancora non possedeva. Entro il feudo le terre rimanevano quasi tutte allodiali, quelle stesse del Signore, e la vita amministrativa continuava nelle molteplici forme che essa aveva variamente stratificata nei secoli. Si è in questo quadro di larga autonomia in mano ai gruppi locali o settoriali che incisero le riforme nella seconda metà del secolo XVIII. Esse ne sconvolsero il differenziato particolarismo per creare strutture omogenee, spezzarono la poliedricità degli uffici creando una nuova burocrazia di tecnici specializzati in singoli problemi, stroncarono le autonomie per immettere la regione nel più vasto circuito del grande Stato centralizzato. In un più particolare esame delle trasformazioni che essi operarono, tre prospettive si pongono alla nostra attenzione. Il nuovo strutturarsi degli uffici, l'intervento e la presenza dello Stato a regolamentare e a dare impulso alla vita della provincia, campi di intervento, divisioni di poteri, coordinazione di programmi. fu il nuovo onnipresente volto con cui la monarchia si presentò ai cittadini, sostituendosi alle forze locali e settoriali. Secondo, la nascita di una nuova burocrazia che si stese a ragnatela sul paese e la modalità del suo reclutamento e della sua formazione, lo sviluppo della sua carriera nel suo spazio di potere e nelle sue gratificazioni economiche. Terzo, l'interazione tra governo e società, composizione e azioni di fatto di tale burocrazia guidata dalla complessa presente azione del governo centrale, ma che, mediandone il potere, lo trasformava. Anche la macchina più congegnata si modifica nelle mani degli uomini che ne fanno quotidiano uso. I vari campi sono stati toccati negli studi che il nostro secolo ha dedicato a questo assolutismo illuminato che gettò le basi del nuovo Stato moderno e promosse l'incanalarsi di una dimensione europea alle sommaziose vite locali. Tra le due guerre fu approfondito soprattutto il primo aspetto, nella scia degli interessi politico-giuridici. In questo dopoguerra il terzo, nella suggestione degli interessi sociologici. Ma gli studi si sono accentrati sul vertice e meno hanno toccato il largo tessuto umano dei centri minori. Ancora molto resta da fare. Il nuovo Stato accentrato burocratico non si impose d'un tratto con una traumatica, sanguinosa rivoluzione. Pure il suo affermarsi fu rapido e incalzante e fin dall'inizio delle riforme apparve chiara e drasticamente perseguita la trasformazione a cui si tendeva. Accantonato il lento e claudicante evolversi dei due precedenti secoli, nel rapido e convulso attuarsi dei nuovi piani di governo, la vita sociale e politica della regione fu radicalmente trasformata in 20 anni. In 40 trovò il nuovo definitivo assetto. Nell'individuare le tappe di questa evoluzione si è soliti considerare 3 periodi fondamentali. Quello teresiano che i vari problemi imposta, quello giuseppino rigidamente conseguenziale nel portare a conclusione in modo organico e totale la trasformazione, quello leopoldino che smussa le opposizioni più polemiche ma che di fatto stabilizza il nuovo tipo di società politica. Sarebbe tentante, in un'ulteriore schematizzazione del periodo teresiano, distinguere gli anni dei primi interventi che soprattutto cercano prendere atto con chiarezza della situazione su cui si vuole agire nel caos che travolge lo Stato al chiudersi di mezzo secolo di guerre sovente combattute sullo stesso territorio lombardo, e il periodo successivo alla guerra dei 7 anni, quando le riforme incisero sconvolgendo tutti i settori. Ma già il primo periodo, con le piante degli uffici e l'applicazione del nuovo contratto, fu qualcosa di ben più determinante che non sia un pur attento prendere atto e riordinare. Le riforme subito dilagarono al chiudersi delle guerre di successione, investendo l'ambito finanziario ed amministrativo, regolamentando il settore economico, trasformando l'attività giurisdizionale e l'aspetto politico. E nell'ambito politico più acuto infine si fece lo scontro con la società preesistente, più chiara si affermò la trasformazione. Nella monarchia assoluta il sovrano ancora poneva quale suo compito primario la tutela di una funzione che sempre era stata ritenuta coessenziale alla sovranità, quello della difesa e dell'amministrazione della giustizia. E tuttavia questo compito egli sovrintendeva da lontano, mentre un nuovo settore si era posto al centro del suo interesse, quello finanziario, che poteva rendere autonomo da condizionamenti di più potenti sudditi la sua azione politica. Ma non era sufficiente imporre il tributo e avere la forza di esigerlo. Occorreva fare in modo che concretamente questi tributi fossero raccolti e fossero fatti regolarmente affluire alle casse dello Stato. La monarchia asburgica di Spagna ed Austria si era adagiata contemporaneamente su 2 modalità di esazione. Per le tassazioni dirette, personali o sul patrimonio, ordinarie o straordinarie, aveva reso responsabili in solido le province o i corpi civici. Gli aveva quasi sempre lasciato ad essi lo stabilire i criteri di suddivisione delle somme da raccogliere, l'entità delle attribuzioni, le modalità di esazione. Per le tassazioni indirette, dazi, dogani, diritti di mercato, per i monopoli del sale, della polvere da sparo, eccetera, aveva preferito contrattare con la grande finanza, farsi anticipare con gli appalti gli introiti presunti, lasciare ai privati di organizzare la rete degli esattori, renderli responsabili della retta esecuzione delle sue disposizioni. Banchieri, potenti mercanti, grossi speculatori avevano trovato in tali contrattazioni uno dei più lucrosi investimenti per i capitali in cerca di redditi. Ma le guerre si erano fatte sempre più continue, gli eserciti più numerosi ed ingoiavano insaziabili denaro. Nuovi dazi erano stati imposti, erano stati appaltati a nuovi offerenti, erano stati chiesti anticipi sul reddito degli anni futuri, erano stati condizionati gli appalti ai grossi prestiti e i prestiti agli appalti che ne garantissero con il loro gettito interessi e redenzioni. In un mostruoso crescere della finanza privata che gravava a piovra su tutte le risorse dello Stato. A metà del secolo XVIII, all'esaurirsi delle guerre di successione, la Lombardia era stremata, metà della regione perduta. I prestiti forzosi dello Stato avevano prosciugato tutti i capitali liquidi e le contribuzioni continuavano gravose ed incessanti, ma solo un esiguo rigolo ne giungeva alla tesoreria pubblica. Né era possibile tenere di più. Commerci ed industrie languivano. Filatoi e telai della lana e della seta tacevano inoperosi. Le campagne pullulavano di sbandati e di briganti. Ma ancora la guerra non era conclusa e già si profilava la ripresa. Nello Stato si tentavano nuove iniziative industriali, si chiedevano privilegi per nuove fabbriche, si cercavano di tessere le vie dei commerci. Il pallavicino plenipotenziario a capo della Lombardia austriaca proponeva un rigoroso riordino delle entrate e delle uscite statali. I numerosi diversi appalti furono riscattati per poter essere organizzati in modo uniforme, ma la loro gestione fu affidata ancora ad un consorzio di privati. La ferma generale, associazione di capitali che poteva divenire pericolosa per il suo potente monopolio di un intero importante settore dell'amministrazione. E tuttavia essa consentiva una chiara valutazione delle principali tassazioni indirette e dei monopoli. Si svincolarono dai molti diversi condizionamenti prestiti allo Stato che affannosamente si erano susseguiti e furono convogliati in un unico monte, il Monte di Santa Teresa, con l'impegno di una loro sistematica redenzione. Gli introiti indiretti avevano così ricevuto un organico riordinamento, ma esso ripeteva, seppur razionalizzandolo, le tradizionali forme di gestione. Rivoluzionario fu invece il criterio che subito si impose nell'esazione delle tassazioni dirette, appoggiate soprattutto alla proprietà fondiaria. Il nuovo catasto, che già da 30 anni era stato redatto, ma che le vicende della guerra avevano consentito di sfollare e di insabbiare, fu ripreso e completato. La distribuzione dei carichi non era più lasciata alla discrezionalità degli enti locali, ma stabilita direttamente dallo Stato sul rilevamento parcellare delle estensioni e delle colture, sulla valutazione delle rendite di ciascun appezzamento. Valutazione che fu fatta in modo omogeneo per tutte le terre, anche se non evitò, al momento della tassazione, che ancora alcune esenzioni rimanessero per i membri degli antichi ceti privilegiati, in particolare per il clero. Furono esenzioni fiscali, tuttavia, poche e parziali, mentre si affermava il principio che tutti, in modo uguale, secondo i propri beni, dovessero contribuire alle necessità comuni. Crollava uno dei cardini del privilegio, della diversità dei gruppi sociali di fronte allo Stato. Le opposizioni, le remore, i tentativi di contestazione o di imbrigliamento a questo impersonale rilevamento di tutte le terre si moltiplicarono, ma il nuovo catasto passò. Ancora furono lasciate ai corpi municipali, secondo la tradizione, la esazione delle tasse, ma perché esse fossero imposte e raccolte senza cedevoli debolezze o sotterfugi, i seggi delle municipalità fummo sottratti al monopolio dei ceti o dei gruppi che le avevano distribuiti in esclusiva nei tempi precedenti. I consigli furono aperti agli estimati, i maggiori estimati di qualunque stazione essi fossero. I nuovi consigli allargarono promiscuamente il loro potere dalle città ai contadi, il loro operato fu di continuo controllato dalla presenza del cancelliere, un funzionario governativo, deliberazioni e bilanci furono sottoposti all'esame e all'approvazione della centrale giunta del censo. Da un punto di vista formale, l'ingresso degli estimati non decurioni nei consigli cittadini segnò il tramonto del monopolio patrizio. Ma in molti casi esso non fu sconvolgente novità. Non solo, perché già nei piccoli centri i decurioni coincidevano con i grossi estimati. E i nomi infatti rimangono quasi uguali per tutta la seconda metà del secolo. Ma anche perché in molte città minori i consigli già da decenni avevano aperto l'ingresso agli elementi estranei al ceto decurionale, soprattutto là ove i possessori di ingenti beni civici erano estranei al decurionato locale e che erano stati inseriti nei consigli quando la pesante pressione fiscale sembrava strozzare i beni rustici ed era sembrato opportuno il tentativo di responsabilizzare anche questi contribuenti privilegiati. Anche grosse città come Cremona li aveva accolti accanto ai rappresentanti della mercanzia e l'apertura che era stata sancita dagli statuti. Fatto nuovo fu la cancellazione della tradizionale divisione tra città e contado, del loro sommarsi anziché contrapporsi, che intaccava inveterate gelosie autonomistiche di cui si era sinora giovata la monarchia e che cancellava l'imperio, l'arcobaleno delle diverse strutture locali dei centri minori. Meno fu rilevato, in proporzione, quale rivoluzionario precedente fosse la rete dei funzionari eletti dal governo superiore che ora coprì a ragnatela tutto lo Stato. Per la prima volta la monarchia controllava direttamente le amministrazioni locali, dalle maggiori alle minori, e direttamente vigilava la riscossione delle imposte. Il nuovo omogeneo criterio di tassazione diretta, la conseguente trasformazione delle strutture locali e il condizionamento delle libertà d'azione già si concretarono nel primo decennio dopo Cristiana. La grossa battaglia aveva spezzato contemporaneamente il privilegio fiscale e il privilegio politico del ceto dominante. Ma non aveva agito, aperto il potere alla più mobile e generica classe dei possidenti. Le nuove strutture lasciavano ora un limitato spazio di reale autonomia ai nuovi organismi amministrativi, nei quali gli elementi buoni erano entrati. La breccia entro il ceto dominante aveva invece consentito il dilagare del potere centrale sopra le autonomie locali. E, come le strutture locali, anche quelle del potere centrale erano state trasformate, seppur con diversi criteri. La contrazione del magistrato ordinario e di quello straordinario nell'unico magistrato camerale non solo aveva dato una più compatta struttura alla suprema magistratura fiscale ed economica, esso aveva dato anche l'avvio ad una ristrutturazione degli uffici che ne scolpiva il personale e soprattutto imponeva un nuovo criterio all'assegnazione delle cariche. Le grandi magistrature lombarde erano sempre state escluse da quella assurda e pur comune venalità delle cariche concesse per grazia sovrana che fu caratteristica di tutto lo Stato assoluto. Ma l'ultimo periodo spagnolo e quello austriaco avevano creato la possibilità di tale acquisto di fatto, con le pesanti tassazioni che condizionavano la nomina e ancor più, con la compera delle future ipoteche sui posti che si sarebbero resi liberi, e ne aveva gonfiato il numero con le assegnazioni dei soprannumerari. Nella prima metà del secolo, il dilagare della corruzione al vertice dello Stato, in particolare con il Consejo de España e con il Consiglio d'Italia, che fu la roccaforte degli esuli spagnoli senza alcun'altra fonte di reddito, aveva moltiplicato questo abuso. Per gli incarichi minori, invece, la prassi delle vendite era più antica e ormai codificata. Esse erano state sovente concesse anche quale ricompensa o grazia a persone che si volevano beneficare o quali pensioni a vedove ed orfani. I possessori li avevano poi quasi sempre subaffittati, creando un intricato groviglio di diritti inalienabili. Le ricompense che questi uffici offrivano erano piccole, ma pur sempre gravose per lo Stato, che aveva spensieratamente moltiplicato gli uffici e sovente inutilmente. Uffici pletorici, sovraffollati, sproporzionati alle varie e reali esigenze dei diversi settori. Ed essi inoltre sottraevano allo Stato ampi introiti, perché diritti per atti e sportule passavano per legge nelle tasche dei magistrati e degli impiegati a completarne gli scarsi stipendi ed aprivano la via ai facili abusi nei confronti della popolazione. Già nel 1745, quando ancora la guerra non era finita, il piano Pallavicini, affrontando anche il tema delle uscite a fianco a quello delle entrate, aveva toccato lo scottante argomento delle nomine, cercando di individuare i molti detentori di cariche e di stipendi. Il piano Pallavicini fissava una nuova chiara pianta degli uffici con un chiaro e ridotto organico. Erano abolite le future, aboliti i soprannumerari, era cancellato il principio ormai radicatissimo della vendita delle cariche e aumentati gli stipendi, ma erano cancellate pure le sportule. Tutti gli introiti dell'ufficio a qualunque titolo raccolto avrebbero dovuto confluire nelle casse dello Stato. La riforma, sospesa dalle ostilità che erano riprese sullo stesso suolo lombardo, fu riproposta nel 47 e già tra il 49 e il 51 giungeva in porto, malgrado il malcontento e le opposizioni. Essa segnava il crollo di una cospicua rete di interessi economici, ma era anche il crollo di posizioni di prestigio e di consolidati sistemi di clientele. La riforma era già nell'aria. Nel nuovo secolo illuministico, ovunque in Europa, si ribadiva la richiesta di una sperimentata preparazione necessaria a chi assumesse le responsabilità di governo. Le stesse magistrature lombarde avevano proposto l'abolizione della vendita degli uffici di giustizia e l'obbligo ai possessori delle altre cariche di esercitarle personalmente. Ma con la nuova legge sfuggiva al patriziato il controllo di quelle magistrature ove quasi sempre erano riusciti a imporre di fatto un sistema di cooptazione, sfuggiva il controllo dei minori uffici ove avevano collocati uomini a sé devoti o a sé legati da personali interessi. Lo snellimento delle piante, la moralizzazione delle nomine, rendeva gli uffici direttamente dipendenti dal potere centrale. L'opposizione al Pallavicino, le proposte alternative che Milano e la Lombardia inviarono ripetutamente a Vienna, proponendo l'abolizione di alcune fra le consuetudini amministrative e fonti di maggiori disordini, ma dirottando l'attenzione soprattutto sull'esigenza di provvedimenti che favorissero la ripresa economica dello Stato, non avevano avuto successo. Lo Stato assoluto e tradizionale aveva sentito la necessità di un'articolata burocrazia, ma se l'era poi lasciata sfuggire di mano con le vendite. Il nuovo Stato illuminato rivendicava con le proprie responsabilità i propri diritti alle scelte. Il problema non era solo di economia e di introiti, era anche e consapevolmente problema politico. Il mutamento non fu tuttavia repentino, perché si doveva tener conto degli impegni già assunti. La nuova pianta degli uffici tracciava anche la nuova pianta del personale nominativamente indicato. Ma a tal pianta A, che presentava la soluzione ideale e futura, si affiancava una pianta B, con l'indicazione della situazione transitoria. Il loro confronto è eloquente. Se alcuni magistrati impiegati appaiono congedati pur conservando il diritto al soldo, i più rimasero in soprannumero ad estinzione o in attesa di altri incarichi, e questo perché il provvedimento non era contro le persone di cui sua onestà non aveva che da lodarsi e a cui stimeva la massima stima, ma era dettato dalle esigenze dello Stato. Tuttavia, il nuovo principio era stato stabilito e fu confidenzialmente fatto salvare, mentre si sfaldavano per esaurimento i diritti già acquisiti. Anche in altro modo, la mano del potere superiore cadeva pesante sulle maggiori magistrature dello Stato, che si erano sempre considerate responsabili solo e genericamente di fronte al sovrano e che realmente avevano cercato di contestare la propria indipendenza di fronte al governatore in loco e ai consigli che risiedevano nella capitale. Anche di questo dualismo, con cui ostentatamente si contrapponevano al governatore, si erano giovate le forze locali per affermare le proprie autonomie. Perché a propria volta il governatore, rappresentante del sovrano, godeva di fronte ad esso di un proprio spazio di azione che gli derivava dalle precedenti prestigiose carriere nella diplomazia e soprattutto nelle armi. E la sua forza di fronte alle magistrature locali era stata ora maggiore ora minore nel gioco alterno della sua personale capacità di imporsi. Ma dopo la metà del secolo il governatore divenne figura coreografica, mentre responsabilità di poteri e catena di rapporti con la capitale si sommavano nelle mani di un ministro plenipotenziario, persona che proveniva dalla carriera degli uffici, funzionario di Vienna da cui riceveva disposizioni e ordini e a cui doveva rendere conto di ogni suo atto, mentre a Vienna stessa scompariva il quasi autonomo Consiglio d'Italia, sostituito dal Dipartimento d'Italia. Attraverso i nuovi uffici il controllo sulle magistrature locali si fece continuo e puntiglioso. In 10 anni erano state spezzate le complici autonomie a livello locale e erano state impigliate le orgogliose magistrature centrali. Al chiudersi della guerra dei 7 anni le riforme ripresero rapide ed organiche e già tra il 67 e il 71 il loro primo ciclo si concluse toccando e trasformando tutti i settori della vita dello Stato. La ferma generale fu sciolta e le imposte indirette, dazi, dogane, monopoli, passarono all'immediata gestione del Supremo Consiglio di Economia. Per affrontare i nuovi compiti esso si servì anche degli uomini che già con i fermieri avevano ricoperto i vari uffici, assumendo quanti riteneva capaci e fedeli. Ma il potere della grande finanza, della nuova borghesia degli affari, che ancora aveva potuto condizionare lo Stato negli anni precedenti, mentre questi agiva contro la barriera meno salve, sgrantellando le posizioni di forza politico e di prestigio sociale degli antichi ceti dirigenti, ora era a propria volta annullato e lo Stato cercava di liberarsi dal condizionamento di queste nuove forze in rigogliosa e spregiudicata espansione. Gli uomini della nuova borghesia e della recente nobiltà continuarono la collaborazione con le sfere di governo. Li incontriamo ancora e per tutto il secolo con incarichi di responsabilità e in posizioni eminenti, ma non si presentarono più quali potenze economiche in grado di trattare ufficialmente alla pari con le forze politiche. Fu stroncato la possibilità dell'imporsi allo Stato di un nuovo condizionamento, mentre continuava lo smantellamento dell'antico. La redenzione forzosa delle regalie alienate ai feudatari, alcuni dazi interni, alcuni diritti demaniali, i monopoli locali, diede in mano allo Stato il diritto di controllo su tutte le proprie terre. Ma di esso lo Stato non si servì solo per accrescere i propri introiti o per allargare l'autorità di una propria diretta presenza. Se ne servì anche per attuare un programma mercantilistico di dogane e liberistico nella circolazione interna della ricchezza che assecondò l'impetuoso slancio economico che sorgeva nel Paese nella pressione di molte iniziative private. E adesso offerse uno strumento prezioso, quella riforma della moneta che fu attuata dopo 6 studi. Ancora l'azione di riforma si sviluppava simultanea al periferia e al vertice dello Stato. Eliminati i fermieri, svuotati i diritti feudatari, anche le maggiori magistrature, già ridotte in numero e attentamente controllate, videro snaturato il loro antico significato con la trasformazione dei loro ambiti di potere. Si impose una rigida divisione di compiti. Al Senato tutta l'amministrazione della giustizia, la criminale, la civile, la camerale. Al magistrato camerale tutti gli oggetti economici in finanza. Alla nuova Camera dei Conti il controllo delle entrate e delle spese. Ridotti ad organi tecnici con frammentati, limitati e ben circoscritti poteri, le antiche magistrature non erano mai più gli orgogliosi rappresentanti ed arbitri della vita dello Stato. Sarebbe stato assurdo rivolgersi ancora al Senato con la tradizionale supplica, potentissime rex. E vuota suonava la lapidaria intestazione che ne aveva aperto le sentenze. Senatus censuit. Il nuovo codice penale unificato, la nemesis teresiana, regolava l'amministrazione della giustizia in tutto l'impero. Ma i compiti chiaramente individuati di ciascuna magistratura evitavano ora l'accavallarsi vistoso delle competenze e gli arti di potere tra l'una e l'altra. Accentuavano l'esigenza di specifiche competenze e preparazioni, poneva la trama di una regolare, puntuale ed efficiente amministrazione. E le ruote di questa amministrazione statale avevano ciascuno un proprio collocamento nel luogo necessario che consentiva il fluido funzionamento del congegno, ma altrove è il disegno generale di questo congegno e la sua guida. Lo confermò anche il nuovo regolamento che fissò compiti, orari e stipendi agli impiegati inserendoli in fasce omogenee per affinità di impegni. Le posizioni anomale si andavano esaurendo ed un'uniforme organizzazione poteva essere avviata. Le fu esplicita affermazione la premessa al regio dispaccio. La necessità di introdurre in tutte le parti della pubblica amministrazione l'uniformità dei principi e la premura di rendere più semplice e più spedito il regolamento, l'uniformità dei principi tendeva ad equiparare il trattamento economico per attività e responsabilità consimili, ad individuare esperienze e competenze per usufruirne nel luogo opportuno. La continuità dell'impiego era di fatto assicurata, anche se non coincideva con la continuità del posto ad evitare la sopravvivenza degli enti infini. I frequenti mutamenti che in questi anni sconvolsero gli uffici, riunendo o dividendo settori di competenze in organismi sempre diversi, nel laborioso tentativo di assestamento delle rinnovate strutture, accentuarono la mobilità degli impiegati e dei funzionari, ma essa non segnò per il solito mutamento di funzioni o di ambito di attività. La burocrazia si consolidava più numerosa, più differenziata nei compiti, più assimilata nelle carriere. Era un nuovo esercito, addestrato e selezionato per i compiti pacifici dello Stato. La presenza determinante di questo Stato si allargava a macchia d'olio. Mentre una nuova cattedra ne teorizzava i compiti e i metodi, il Beccaria insegnava la nuova economia politica nelle scuole palatine per i docenti di nuovi e più aperti studi, le nuove intendenze fiscali avvocavano a sé tutte le incombenze fiscali, esonerandone i consigli locali. E l'attività dello Stato investiva ora settori che da secoli gli erano estranei, dove erano fiorite sovente molteplici ed efficaci le iniziative private e locali. Toccò il campo della scuola, per ora solo quella superiore, dando norme per l'Università di Pavia sottratta alla guida del Senato, istituendo nuovi centri di studio e di formazione scientifica e artistica. Avvocò a sé i compiti sociali, settore completamente nuovo per lui, incorporando le antiche pie fondazioni e a loro sostituendosi, allargando l'assistenza a tutta la popolazione. Iniziò lo smantellamento delle prerogative ecclesiastiche, trasferendo la gestione dei propri uffici molti beni, ma anche molti compiti. Lo Stato deve provvedere al benessere e alla felicità dei sudditi, avevano ribadito i nuovi teorici del Settecento, e lo Stato se ne occupava, sostituendosi alla fioritura delle iniziative individuali, Fiora raccoglieva nelle sue mani e le strutturava perché in modo uniforme e organico potessero operare. Una lista di giunte fu posta in essere, con attività limitata nel tempo perché ciascuna studiasse i problemi di un particolare settore, ne valutasse i precedenti, indicasse possibili soluzioni, sperimentasse nuovi metodi di azione. A farne parte furono chiamati con oculatezza uomini validi e preparati, quanti la regione poteva offrire, ma anche le menti straniere, soprattutto dalle terre della monarchia e dalle vicine regioni d'Italia che nell'orbita della monarchia avevano gravitato o gravitavano. Molti furono toscani o emiliani. Una scelta questa che fu quasi sempre oculata e felice e che ancora si fondò sul riconoscimento di capacità e di competenze. Ancora, anche per questi incarichi creativi, si impose il criterio delle scelte tecniche. Esauriti i propri compiti in un breve giro di anni, le giunte furono sciolte, ritornarono i vecchi organismi statali, ma svuotati e con compiti e fisionomie diverse. E ad essi se ne affiancarono di nuovi con specifiche attività. Ancora le leve erano mosse da Vienna, ma lo Stato vi si adeguava e sorrise con soddisfazione. Fu l'età della grande collaborazione, delle giovani leve dei patriziati lombardi che si impegnarono con entusiasmo nell'opera di rinnovamento, convinti di poter ridare prosperità e prestigio alla patria. Essi avvertirono la gravità del momento, ma anche le possibilità nuove che al paese si offrivano. Dopo lo stagnante periodo spagnolo e il caotico cinquantennio di guerra nel primo periodo asburgico, le condizioni della Lombardia erano tante disastrose e aberranti che un rinnovamento era apparso a tutti, o quasi a tutti, indispensabile. Occorreva fare qualcosa per uscire dal pantano in cui lo Stato stava affondando. Offrivano speranze, anzi certezza di successo, le iniziative vivaci, le indomite energie che avevano cercato a farsi strada fin dai decenni precedenti. Tentativi imprenditoriali, pionieristiche esperienze agricole, grosse imprese culturali. Energie individuali ed iniziative frammentarie, ma che testimoniavano come nella società lombarda serpeggiasse un'audace e seria volontà di fare, a cui è necessario dare strutture sane ed aperte per consentir loro di dispiegarsi e di moltiplicarsi. Non può essere dimenticata la pressione di tale fermi determinazione di iniziative pur negli anni più neri della crisi dello Stato e la volontà di vita che esse esprimevano, perché queste ci consentono di comprendere significato e valore dell'entusiasta e intelligente collaborazione che sperimentazioni e riforme trovarono negli ambienti del patriziato e della più aperta e colta borghesia lombarda. Quel patriziato che le riforme travolgevano e che la borghesia in parte imbrigliò. Sarebbe troppo semplice vedere nella loro collaborazione soprattutto il tentativo di aggirare quella trasformazione della società politica che essi non erano in grado di impedire o di condurre innanzi da soli. Il tentativo di cavalcare se stessi la tigre delle riforme, conservando nelle proprie mani il potere. Se negli uomini che collaboravano all'opera di riforma orgogliosa e talvolta ombrosa era la coscienza della loro lunga esperienza familiare e della loro individuale preparazione e capacità, se essi guardarono con sufficienza e diffidenza sia gli stranieri che dilagavano nei maggiori uffici con i quali erano costretti a collaborare, sia il nuovo ceto impiegatizio di estrazione borghese popolare che dalle file della nuova burocrazia finiva con il controllare, condizionare e comandare in tutti i settori dello Stato, vi fu anche in loro la convinzione di essere i demiurghi di una realtà nuova, più efficiente ed aperta, i necessari protagonisti di una creativa esperienza. Mi sono fermata a lungo su questo momento teresiano, perché non mi pare affatto che Maria Teresa sia stata la solerte madre di famiglia che, circondata dai numerosi figli, faccenda per casa mettendo ordine. Gli incalzanti provvedimenti che trasformarono la vita lombarda, analoghi si ripeterono nelle altre province dello Stato e si accompagnarono alla rapida evoluzione del governo superiore dal sistema dei consigli, ciascuno nel suo settore autonomo e diverso, al sistema dei dipartimenti, settori specializzati di un unico organismo. Il momento rivoluzionario dell'età delle riforme mi appare questo, che tra il 49 e il 71-72 già può dirsi compiuto. Maria Teresa aveva ereditato un regno che era una congerie di stati, ogni stato una congerie di province, ciascuna con propri regolamenti di istituti, ciascuna con una propria autonoma amministrazione entro la quale a fatica si inseriva la diretta presenza sovrana con la nomina alle cariche di persone fidate ma pur sempre scelte entro condizionati gruppi. Lasciava uno stato dove autonomie e ceti di potere erano stati cancellati, che ormai dipendeva in ogni settore dal sovrano e da una sua organica burocrazia, rigidamente strutturata, e da lui controllata e guidata. In poco più di 20 anni e l'aveva superato un cammino di secoli. E aveva ottenuto questo piegando l'ostilità stizzosa ma inconcludente degli accantonati detentori del potere, anzi, ottenendo la collaborazione efficace ed entusiasta delle giovani leve di quell'antico ceto dirigente da cui aveva saputo ottenere tutto il prezioso apporto di una lunga esperienza di problemi e di situazioni, di una cauta consuetudine di guida di Stato, della volontà audace e generosa che prefigurava una società nuova e migliore. Era stato l'aiuto più efficace e costruttivo che essa potesse trovare per un'opera di rinnovamento che non si esaurisse in un astratto schematismo formale o non si smarrisse nei fumosi cammini dell'utopia. Ed anche questo non fu suo merito da poco. Dopo Maria Teresa la trasformazione continuò, ma essa non fu se non il definitivo assestamento di un'opera ormai irreversibile. Chiaro dei giudizi, ma lontano dall'animo dei suoi popoli, Giuseppe II avanzò dietro lo sterno del suo cortese e distante sorriso, conducendo a termine l'irrigidimento delle strutture di governo in un conseguenziale accentramento e in un loro geometrico astratto articolarsi. Ebbe il suo momento più traumatico quando nel 1786 abolì le 9 costituzioni, che pure già più nulla significavano. Cancellò anche il nome delle antiche magistrature e delle congregazioni, che già erano diventati uffici nuovi e tutt'affatto diversi. Diede diversa e più razionale divisione alle circoscrizioni provinciali, ove ormai scomparse le forze storiche locali, apparve la figura dell'intendente politico che convogliava la nuova razionale e il personale burocrazia locale. Articolò in grossi dipartimenti accanto al ministro plenipotenziario la complessa amministrazione centrale della regione, allargò il controllo sul clero e sulla Chiesa anche nel campo più specificamente religioso. Si preoccupò non solo del benessere ma della formazione dei sudditi. In quel suo largo impegno per una scuola elementare aperta alle esigenze della società nuova ed estesa a tutti nelle città e nelle campagne. Una scuola che doveva dare una varia ed utile cultura, ma che anche doveva formare il buon cittadino ed il buon suddito. Impiegati e anche funzionari, ormai rigidamente inquadrati, venivano da Vienna, dalle altre parti dell'impero, o erano gli omnes nove che emergevano nella formatisi nell'esperienza degli uffici o che già avevano bussato le porte del potere con la potenza del denaro e il recente acquisto dei titoli nobiliari. Il vecchio ceto dirigente aveva esaurito il suo compito e non vi era più posto per lui nel nuovo stato dove nel gioco il giro di 2 generazioni si era formate le nuove competenze salde da un punto di vista tecnico e molto più sicure nella provata fedeltà alla monarchia. L'accentramento mostrava il suo volto più duro e più soffocante e fu necessaria un'occhiuta polizia per sfondare le opposizioni. Poi la pausa di Leopoldo II, che veniva dalla Toscana con la duplice fama di principe riformatore e di principe costituzionale. Ma dal dello Stato, le suppliche ufficiali che a lui si rivolsero o i programmi che a lui si inoltrarono in risposta alle sue richieste di proposte nuove non seppero in gran parte se non prospettare una restaurazione di poteri e di istituti ormai cancellati. Leopoldo II ascoltò, ripristinò antichi nomi di magistrature scomparse, ma lasciò intatta la sostanza della trasformazione. Anche se cancellato l'intendente politico, gli diede alcune autonomie e responsabilità alle forze locali, soprattutto nell'ambito dei lavori pubblici. Ormai le vecchie strutture erano spezzate ed il significato di autonomia e di partecipazione al potere doveva trovare forme nuove nelle quali poter validamente esprimersi. Sarà questo il compito dei prossimi decenni. Il professor Bandusca, altri? Anche cavaliere del lavoro di Cervano. Cervano. Ecco. Vi chiedo scusa, ma intervengo, ahimè, una volta ancora come veterano di questi studi, che i primi studi miei in argomento risalgono, beh, non dico quanti decenni fa, perché non voglio farvi così. Qui c'è tutto. Dunque, io non ho nulla da aggiungere a questa così solida, concreta, ben costruita relazione della signorina Annoni. Si sono molto fiero che una mia allieva abbia saputo perfezionare il maestro in questo modo. Soltanto volevo semplicemente sottolineare delle conclusioni, sotto la prospettiva particolare che ci interessa, cioè i rapporti Austria-Italia. Veramente, a mio vedere, il Settecento è il prologo, per questo anche ho insistito che venisse introdotto nel programma, perché è il prologo di quello che poi sarà il secolo successivo. Prima della dominazione austriaca in Lombardia, della conquista della Lombardia da parte dell'Austria, regnava in Lombardia sotto il dominio spagnolo una sostanziale staticità e una larga autonomia locale che si identificava col privilegio delle classi dirigenti, delle classi patrizie. La conquista austriaca, chiusa, è vero, chiuso il ciclo delle guerre di successione nella seconda metà del secolo, ha significato per la Lombardia molto l'aprire le porte d'Italia, anche una della Lombardia in particolare, al vento innovatore che soffiava sull'Europa. Siamo nel periodo riformatore, nel vero periodo dell'assolutismo illuminato. La dominazione austriaca significa l'iniziativa illuministica, l'iniziativa riformatrice, che poi è accompagnata, ed è questo l'interessante, da un forte movimento locale. È vero, noi sappiamo che Milano era una delle centrali del pensiero illuministico italiano accanto a Napoli e a Firenze. Dunque l'impulso, le porte d'Europa aperte, la costruzione del nuovo Stato, secondo i dettami della filosofia dei Lumi, la razionalizzazione dello Stato, la costruzione di una fabbrica razionale, diceva il nostro amico Kaunitz, è vero, dice bisogna abbattere la vecchia fabbrica e costruirne una nuova secondo criteri ben definiti e razionali. La signorina Annoni ha giustamente fatto le lodi del governo teresiano e di Maria Teresa, di cui io sono un sincero ammiratore. Mi sono lasciato andare, non so se ricordi, la pagina in cui presento Maria Teresa al suo esordio di regno, ancora cosa aveva, 23 anni, ecco, primo consiglio dei ministri quando manovra queste vecchie volpi, questa giovane donna. Beh, lasciamo andare la parola. Dunque, d'accordo sul periodo teresiano, in cui si imposta veramente la costruzione della nuova fabbrica, come diceva Kaulitz. Ed è un periodo particolarmente felice perché ha la collaborazione, come ha sottolineato la signorina Annoni, delle forze locali. Le avanguardie, è vero, che appartenevano per lo più al centro patrizio, come ha detto giustamente lei, eccetera, le avanguardie collaborano, è vero, con questo sforzo di centralizzazione, di statalizzazione, se volete, ma che obbediva a criteri che era nello stesso tempo sforzo di razionalizzazione. Ma è appunto in questo superamento delle autonomie locali che nel periodo, soprattutto Giuseppino, non so se sei completamente d'accordo con me, nel periodo Giuseppino, che questa collaborazione, è vero, si incrina. Con Giuseppe II qua io accentuerei un po' di più di quanto non abbia fatto la signorina Annoni la rigidezza dottrinaria delle riforme giuseppine, che finiscono con lo schiacciare del tutto quello che poteva essere il rispetto delle autonomie locali, che nonostante tutto nel periodo teresiano avevano avuto un minimo di respiro. Il vecchio patriziato aveva identificato la difesa dei propri privilegi con la difesa dell'autonomia e la difesa quindi di un patriottismo locale. Col periodo giuseppino si inizia non soltanto una determinata concezione dello Stato del giuseppinismo che porta questa razionalizzazione, a mio vedere, a conclusioni estreme e quindi ad una certa oppressività e totalitarietà. Ma non solo questo, è l'inizio del divorzio tra l'opinione pubblica, diciamo, se si può qualificarla così, lombarda, e il dominatore austriaco. Col periodo teresiano predomina lo spirito di collaborazione. Col periodo giuseppino, prendete il nostro bollente amico Pietro Verri, è vero, si separa completamente, passa all'opposizione, sente, è vero, il peso di un intervento estraneo. In questo senso anche, vi dicevo, prologo settecentesco, perché si pongono già nel Settecento i problemi che poi l'Ottocento svilupperà, cioè la particolare fisonomia dello Stato e della burocrazia e i rapporti tra dominati e dominatori. Non voglio diffondermi ulteriormente. Grazie. Penso sia opportuno una risposta poi collettiva per non frazionare il discorso. Professor Vanduska ha la parola. Grazie. Sono completamente d'accordo con te per quello che riguarda il divorzio, ma non sono completamente d'accordo con te, e qui vorrei sottolineare una cosa che la collega Annoni ha accennato, ma forse anche per causa del tempo non ha sviluppato nella maniera che secondo me sarebbe abbastanza sarebbe necessaria, cioè che le idee di riforma, la convinzione della necessità di riforma erano già vive nel periodo di Carlo VI. Io credo che noi tutti per molto tempo siamo stati un po' vittime del fascino di questa giovane sovrana e anche di una certa sua politica propagandistica, di un suo certo atteggiamento propagandistico in cui lei ha un po' esagerato forse lo stato di inerzia e di stasi e di pesantezza eccetera sotto suo padre. Io vorrei un po' rivalutare il periodo di Carlo VI. Ma l'illuminismo? Appunto, l'illuminismo è già vivo in Italia e anche in tutta l'Europa, chiamatelo pre-illuminismo eccetera, ma esiste almeno quel sentimento della necessità di riforma. Ricordo soltanto un piccolo scritto di Muratori per il suo principe, dove scrive riforma, riforma e ancora riforma. Cioè l'idea della necessità della riforma è già viva nella prima metà del Settecento. E c'è già il famoso tentativo del catasto della giunta su cui tu hai scritto anche di nuovo, della giunta Miró Cavalieri, eccetera. Però non si arriva. E perché non si arriva? Certamente per varie ragioni. Carlo VI aveva imparato i nuovi metodi di governo già in Spagna, in Olanda, aveva sentito, e Carlo VI ha l'idea della necessità, ma però c'è la situazione della politica estera. Io credo qui è un punto decisivo, vorrei domandare alla cara collega Annone, perché lei ha detto giustamente queste riforme offendono un grande numero di interessi locali. Ora, in un periodo in cui c'era sempre il pericolo che la Lombardia tornasse dalla parte dei Borboni, diciamo Francia-Spagna, non si poteva procedere con tanta energia e anche, se volete, brutalità contro tanti interessi. Invece si poteva poi fare dopo la pace di Aquisgrana, quando già si profila, e poi dopo si verifica, quella alleanza fra Parigi e Vienna, cioè o fra Vienna e i Borboni, che sta privando le opposizioni locali di ogni possibilità di un aiuto dall'estero, perché se il patriziato lombardo si ribellava contro Maria Teresa, diciamo nel periodo dopo la guerra dei 70 anni o anche prima, non avrebbe avuto aiuto dai Borboni. E credo che qui la politica estera ha un suo peso. Vorrei domandare fino a che punto l'aveva veramente o no, si può discutere, ha un suo peso anche nel dare il via alle riforme. Grazie. Grazie professor Vandusca. Il cavaliere del lavoro Vecellio. Io sarò un po' fuori tema perché non sono storico, non sono io. Ho il privilegio di portare all'odierno convegno il saluto affettuoso e l'augurio sincero della magnifica comunità di Cadore, a me presieduta, unitamente a quelli di consigliere dell'Associazione Italia-Austria. I saluti e gli auguri della magnifica comunità assumono un particolare significato perché parte del territorio del Cadore confina con la regione austriaca dell'Obertilla, perché un'analoga conformazione orografica delle persone porta a far sì che tanti dei loro abitanti, e cioè tutti quelli della montagna, abbiano caratteri e interessi analoghi e debbano affrontare quotidianamente le stesse difficoltà di vita. Invero, i contatti fra i popoli sono il presupposto del diffondersi tra di essi della loro cultura, della loro storia, che ne sono la base. Un'unione, tornando a quella tra Italia e Austria, che se ha carattere prevalente nell'ambito di due Stati, è ben incline a portare lo spirito che ne è alla base e i rapporti con tutti gli Stati, specie europei, senza esclusione di sorta nei confronti anche di altri. Ne può far velo il ricordo di contrasti di tempi andati, perché la memoria del conseguente sacrificio di vite e di beni e la storia dei due popoli così degnamente interpretata dagli studiosi di tanto alto valore qui presente si accomuna a tutti nel rispetto di chi attese con onore a un compito affidato. Le frequenti manifestazioni e convegni che vengono intraprese fra le due regioni amiche, desidero citare l'incontro del 4 settembre scorso a Montepiana, organizzato da Frendo Dolomite e dalla Fondazione Montepiana. Vi presenziarono molte autorità tirolesi ed italiane, oltre a ex combattenti delle due parti, tanta gente del luogo. Venne reso omaggio ai caduti, risaltando così i vincoli dell'amicizia tra i due popoli. A questo punto, sia come convinto partecipe dell'animo che caratterizza l'odierno convegno, che come presidente della comunità cadorina, desidero avanzare una richiesta, o meglio esprimere un desiderio. Già nel 1919, la Commissione dell'Armistizio Italiano a Vienna, presieduta per la parte culturale e storica dal professor Cessi dell'Università di Padova, ebbe in restituzione dalle autorità austriache diversi documenti, ma per circostanze del momento non venne richiesta la restituzione dello Statuto della Magnifica Comunità di Cadore. Il suo originale, con il quale essa venne fondata, si trova fin dal 1500 presso il Landesarchiv di Innsbruck. Non inammissibili presupposti di rivendicazione, non motivi di prestigio, ma solo il desiderio di ricondurre il documento nella sua sede naturale, in cui intuitivamente il documento era destinato a rimanere e ove gli studiosi rivolgono la loro logica ricerca, mi inducono a mostrare l'opportunità che il documento medesimo venga consegnato alla Magnifica Comunità, la quale ha per sede l'antico palazzo comunitario di Pieve di Cadore e di un funzionante archivio e biblioteca idoneo a garantirne la custodia e disponibilità a favore dei ricercatori. Mi scuso se ho parlato di un'aspirazione della comunità cadorina, quale parte in causa essendo il presidente, ma ho sentito il mio intimo che sul dire prevaleva lo spirito di appartenente all'associazione Italia-Austria, sembrandomi che il benevolo esame dell'espresso desiderio rientrasse negli intendimenti del nobile sodalizio. Mi consento aggiungere che le mie parole, pure se rivolte a tutti i presenti, sono indirizzate in modo particolare a Sua Eccellenza Zumenberg, ambasciatore di Austria a Roma, per l'autorità che gli proviene dall'altissima carica diplomatica che ricopre, per la tanta solerzia con la quale cementa i rapporti tra i suoi popoli, per la squisita sensibilità che gli è propria relativamente a tutti i problemi riguardanti la cultura. Ecco, ringrazio il Cavaliere del Lavoro Vecellio come Presidente della Comunità Cadorina. Penso di interpretare il pensiero anche del Presidente dell'Associazione Italia-Austria, se dico che al di fuori del Congresso poi questi temi avranno occasioni di essere trattati proprio negli incontri delle due associazioni, il primo dei quali, se non mi sbaglio, si terrà a Roma a metà dicembre, e quindi è in quella sede di amicizia che questi problemi possono essere affrontati. Professor Cervani. Io sono contento di fare il mio intervento sulla relazione dell'amica professoressa Annoni dopo che hanno parlato il professor Valsecchi e il professor Valdemusca. E per questo motivo, io domani devo fare una relazione sul litorale austriaco, relazione che, dovendo essere un profilo piuttosto lungo, sarà anche largamente fuori tema rispetto al più specifico trattamento di argomenti amministrativi, così come è stata la relazione del professoressa Annoni adesso. Dico peraltro che quando noi parliamo della politica delle riforme nelle province italiane dell'Austria, del Settecento, della politica delle riforme in generale, siamo normalmente portati, tranne noi adriatici o gli austriaci, a pensare che il versante di osservazione debba essere, ed è giusto magari che sia così perché è più importante, il versante del Lombardo-Veneto. Ma c'è del Lombardo-Veneto, della Lombardia, chiedo scusa, ma c'è il versante che riguarda le terre dei domini ereditari al mare della monarchia austriaca, le quali sono investite dalla politica riformatrice che per ragioni di maggiore semplicità per quello che riguarda l'articolazione sociale, non si ritrova cioè a Trieste o in Istria interna, contea di Ticino, o nelle contee di Gorizia, gradisca la complessità, l'interesse che rivela precisamente la società lombarda passata nel Settecento all'Austria. Il che semplifica il compito, ma nel paragone consente alcune considerazioni. Consente in particolare quello che vorrei prima di tutto dire. Io sono d'accordo con la professoressa Annoni nel dire che il momento che veramente è stato determinante anche nel Fürstenland per la politica di riforme è probabilmente più quello di Maria Teresa, riferisco a quello che ha obiettato poi il professor Valsetti, che non il momento di Giuseppe II. In effetti, la trasformazione e la creazione di un organismo nuovo che sarà un'intendenza commerciale, come provincia non compatta, come provincia non continua, come un organo finanziario amministrativo che avrà però dignità di provincia, pensiamo ai governi, all'altrove, pensiamo alle rappresentazioni in camera della Carniola, questa si verificherà esattamente alla metà del secolo. Con certamente il dispiegarsi una politica di razionalizzazione molto precisa e nei modi che la Annoni ha messo in risalto, ma tuttavia con un gradualismo che caratterizza precisamente la materna politica, come è stato detto, di Maria Teresa. Che poi quando si parla di Maria Teresa vuol dire parlare anche di uomini di estrema importanza che sono dietro a di essa, e sono Haugwitz, sono Cote, che sono gente del Ober Directorium, che vogliono dire essi Maria Teresa sotto tutti i riguardi. Vuol dire da parte di Maria Teresa la capacità di scegliersi. Naturale, ma insomma è una donna intelligente, no? Non è molto intelligente. Quello che vorrei dire, sono stato molto interessato dall'osservazione del professor Valsetti, è questo, anche quello che ho detto prima l'Annoni, che per quel che riguarda le terre della Giulia o le terre della costa adriatica, un problema in particolare di grande differenziazione fra l'epoca di Maria Teresa e l'epoca di Giuseppe II, in effetti, vorrei sentire cosa ne pensa se stampa in proposito, non c'è. Perché? Perché non trattandosi di un ceto, della presenza di un'aristocrazia terriera o finanziaria molto forte a Trieste, io mi riferisco precisamente a Trieste, anche come l'unico posto che sia indicativo sotto questi riguardi, essendoci un patriziato comunale con modesta proprietà, non fondiaria ma di saline, ma certo non latifondista e non certamente di grande consistenza finanziaria, non è neanche il caso di parlare di una collaborazione che si avrà sotto all'epoca di Maria Teresa o di una non collaborazione che si avrà o di una minor collaborazione che si avrà nel momento in cui Giuseppe II condurrà una politica più rigida. Se di collaborazione parliamo, noi parliamo alludendo a emergenti ceti sociali che non si identificano minimamente con le forze preesistenti. L'Annoni giustamente mi parla della Lombardia, o in genere tutti gli studiosi che hanno studiato il riformismo lombardo, alludendo a una situazione che ha una tradizione, a un senato, forze intermedie che esistono. Noi parliamo per un altro versante di terre in parte italiane, dove si è manifestata l'azione riformistica austriaca, dove queste situazioni non ci sono. Quindi Giuseppe II come Maria Teresa sono sotto questi riguardi ugualmente accetti da coloro, i ceti mercantili, la borghesia emergente, la borsa dei mercanti, gente di estrazione massonica borghese di provenienza internazionale, cioè da vari posti, che si riconosceranno, e direi in un ambiente dove non si tratta di rompere situazioni legate a ferma, a privilegi o a falte di imposte, si agirà in sistema di privilegio, ma di realizzare e impiantare fortune in un porto franco, tutto si renderà sotto questi riguardi più facile. Io poi ho sentito e mi ha interessato molto il professor Van Drusca accennare alla importanza che ha Carlo VI, già prima di Maria Teresa, per l'inizio di un processo di riforma. non dico per la Lombardia, ma è indubbio che tutto il processo di riforma per quanto si riferisce al Küstenland prende l'avvio precisamente da Carlo VI. Certo, non ridurrei fuori dei termini di una visione mercantilistica dell'azione di riforma che viene intraprese, non mi permetterei di ridurre l'azione di Carlo VI già sotto un denominatore di riformismo illuminato o di assolutismo illuminato cosciente. Ciò che muove, e per certi riguardi molto intempestivamente, l'azione di Carlo VI, dico per certi riguardi, sono considerazioni di politica d'estera e considerazioni di opportunità. Da quell'opportunità poi per me, e penso che non sia errato, riguarda una situazione nella quale i domini ereditari, i domini di Casa d'Austria, vengono a trovarsi quando si sono liberati dal pericolo della Turchia. Liberatici dal pericolo della Turchia, dischiusaci alla possibilità di espansione dell'Austria, la Balcania, il Levante, che però verrà raggiunto non attraverso la Balcania, verrà raggiunto attraverso l'Adriatico, attraverso questa Trieste che si pensa di trasformare nel porto della monarchia, cioè l'Austria che vuol farsi un destino sui mari, diciamo così, determina tutto l'orientamento che allora precisamente nascerà. Certo, l'opera di Carlo VI sarà interrotta, certo, Carlo VI non ha i collaboratori che ha Maria Teresa e non ha la consapevolezza freddamente razionalistica e la volontà riformistica che ritroveremo in Giuseppe II. Abbiamo una prima intendenza, parlerò domani di questo, ma senza Carlo VI è inconcepibile pensare complessivamente nel mondo dell'Austria l'avvio di un processo di riforma. Grazie. Il professor Bendiscioli. Io desidero fare un semplice rilievo e un'aggiunta all'affermazione della professoressa Annoni per quello che riguarda le riforme della scuola di Maria Teresa. La signorina Annoni ha affermato che le riforme di Maria Teresa hanno investito soprattutto l'università. Ora vorrei portare il recente contributo di studi dell'ambiente pavese in cui risulta che la riforma ha investito fortemente anche la cosiddetta scuola media superiore, anche il ginnasio, e la riforma ha investito proprio, o si è realizzata con gli stessi complessi metodi e riferimenti che accennava, cioè ad esempio abolito il collegio gesuiti, si trattava di ritrovare quelle 10 o 15, 20 fonti di finanziamento che erano dati da un reddito di questo, dai diritti di un altro, e sono a un certo punto concentrati, quindi quello che avviene a Pavia penso che debba essere avvenuto in altre città dove erano questi collegi. Comunque questo aspetto delle riforme della scuola hanno ancora bisogno di studi, vero? Per quello che riguarda l'elementare l'ha già accennato, e naturalmente è una riforma, questo di un flusso, diciamo così, austriaco, che si fa sentire poi nella restaurazione, e appunto a questo riguardo poi ritornerò. Comunque volevo solo affermare che le riforme scolastiche non investono soltanto l'università, ma investono anche la scuola media superiore, con tutto un travaglio di adattamenti, di sistemazioni, sia organiche sia di personale, che sono state caratteristiche dell'altra riforma. E grazie. Grazie, professor Mencioli. Professor Schiera, ci sono altri interventi? Perché io ho finora solo questo. Io sommetto. Ah, ecco. Ecco, così dopo chiudiamo la discussione. Sì, io cioè non vorrei fare la gara a chi è più bravo ad andare indietro a trovare i precedenti, perché il rischio inevitabile è questo. Tuttavia devo ricordare che prima di Carlo VI c'è Leopoldo, insomma, di nuovo, e sembra ormai accertato che sotto Leopoldo il fermento in senso riformatore è un fermento veramente vivo, grosso, e direi che è un fermento che non riguarda solo gli aspetti strettamente, come dire, operativi, cioè mercantilistici in senso deteriore della politica imperiale, ma è un fermento che parte da grosse acquisizioni di tipo teorico, non ideologico, ma teorico, e giunge anche a, delle, a degli obiettivi, a delle prospettive di tipo amministrativo. Gli studi che sta facendo Béranger e la sua scuola in questo momento a Vienna testimoniano in maniera ampia tutto questo, ma in realtà la storiografia austriaca aveva da tanto tempo, insomma, no? Basta pensare a Zerbeck, messo in luce come l'ultima parte del Seicento fosse per Vienna e per l'Austria un periodo di grossi tentativi di riforma. Io che ho studiato i cameralisti, il cameralismo tedesco, posso veramente dire che nella fine del Seicento è Vienna e l'Austria, insomma, che tira la volata. È a Vienna che ci sono Becher, Hörnisch, Schröder e tanti altri, i quali riescono effettivamente, richiamandosi ai principi del diritto naturale, che in fondo in Germania è cosa relativamente recente, eccetera, riescono a fare dei progetti proprio, degli Entwürfe, a elaborare delle proposizioni che hanno delle basi teoriche estremamente raffinate. Ora, il problema cruciale è quello, secondo me, cioè un problema che veramente sottopongo all'attenzione di voi tutti, insomma, la professoressa Annoni, eccetera, è quello di accertare come e perché questa istanza riformistica, che ha delle basi, ripeto, molto solide, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista materiale, queste istanze riformistiche, che poi in realtà non sono istanze riformistiche, cioè anche lì c'è un equivoco, in realtà qui non si tratta di riforma dello Stato, qui si tratta di fare lo Stato per l'Austria, cioè l'Austria alla fine del Seicento non è uno Stato, è un impero, quindi il problema è di vedere se anche in Austria si riesce ad attuare il processo di organizzazione del potere in termini statali che è avvenuto di già in Francia e che sta per avvenire, si sta avvenendo per esempio in Prussia. Quindi il problema è questo, qui non si tratta di fare la riforma, si tratta di fare lo Stato, credo io, no? Il problema è di vedere come mai questa, la comprensione di questo fenomeno non dà luogo a una realizzazione concreta di progetti e di insomma, interventi legislativi, organizzatori e così via, come invece dopo questa punta di interesse verso la fine del Seicento e nei primi anni del Settecento c'è una caduta di interesse, c'è un declino grosso, che Zerbeck mette in luce molto bene, fino a Maria Teresa. Ecco. Una mia allieva di Bologna sta studiando e ha terminato di studiare la presenza a Vienna tra 6 e 700 di un bolognese, Luigi Ferdinando Marsili, il quale era a contatto costante con quella parte politica viennese che era favorevolissima a interventi di riforma. E sembrava dai suoi dispacci, dalle sue relazioni, dalle sue lettere, risulta continuamente la speranza, quasi la certezza che di giorno in giorno si possano attuare queste grandi trasformazioni, ma non succede niente. Come mai non succede niente? Ecco, questo è il problema. Cioè, come mai bisogna aspettare 50 anni? E allora qui mi permetto di aggiungere un secondo aspetto, poi dopo veramente finisco. Bisogna tenere presente che quando Maria Teresa riprende prende insomma questo processo e riesce ad attuarlo, lo fa perché è brava, perché è una brava madre di famiglia, tutte queste cose qui, però lo fa anche perché in mezzo c'è stata la Prussia. Cioè non dimentichiamo che appunto la staffetta proprio agli inizi del Settecento è stata presa dalla Prussia. Nel 1717 vengono appunto attivate a Halle e a Frankfurt an der Oder due cattedre di cameralistica, che non vuol dire niente, ma vuol dire tutto contemporaneamente, cioè denuncia l'importanza eccezionale che quel tremendo materialista che era il re soldato, in realtà attribuisce ai problemi concreti dell'organizzazione del suo Stato e della preparazione dei funzionari perché questo suo Stato organizzato in uffici moderni funzionasse. Cioè quando Maria Teresa inizia l'opera di riforma dello Stato austriaco, lo Stato prussiano è già riformato. Federico il Grande ha già dato addirittura fondamentalmente i sigilli decisivi, perché contro l'interpretazione di Ritter sicuramente ormai bisogna affermare che l'opera di costruzione dello Stato prussiano, nei termini che abbiamo visto adesso, insomma, cioè anche dico nei termini ideologici, teorici, insomma, no? Illuminati, era già stata realizzata da re soldato. Sapete, il professor Sezzani queste cose in parte le aveva insegnate a suo tempo e quindi non posso che riprendere. La Slesia, cioè, ecco, in che modo il problema della Slesia, l'occupazione, alterna le vicende, questione della Slesia, sono state un tramite, un ponte, proprio di circolazione, di idee, di progetti fra la Prussia e l'Austria. Ecco, cioè, sono tutte cose che appunto alla ricerca del tempo perduto, cioè degli antecedenti, no, della grossa operazione che non è riformistica, ma che è di fondazione dello Stato, che si compia dopo di Maria Teresa di Leopoldo, sono tutte cose che forse meritavano di essere ricordate. Grazie, Sire. Professor Netto. Le relazioni di domani e di oggi e di domani riguardano il periodo 1815 e secolo successivo. La relazione di oggi e gli interventi che ci sono stati hanno voluto più o meno creare un retroterra e un retrotempo, ma è rimasto un vuoto. Il vuoto che è rimasto tra il Mincio e l'Isonzo, dove la Repubblica Veneta, che fornirà il resto del territorio al Regno Lombardo-Veneto dall'813 in avanti, si trova su posizioni ben diverse per quello che riguarda ordinamenti, per quello che riguarda anche accettazione di idee nuove. Mi pare di richiamare l'attenzione dei presenti su questo fatto, perché le riforme dal 1815 in poi si riversano non solo sui Lombardi e sui Triestini e Goriziani, che sono già preparati a conoscere come amministratori illuminati gli austriaci, ma anche verso i Veneti, che sono abituati ancora a conoscere gli austriaci come gli eredi di Massimiliano della guerra di Gradisca e via di questo passo, e quindi pronti ad accettare con un viso non certo lieto quello che la nuova amministrazione lombardo-veneta prepara, primo. Secondo, per quello che riguarda le nuove idee illuminate del Settecento, noi sappiamo che gli illuminati veneti sono nella Repubblica all'opposizione e non nell'amministrazione come nel resto del territorio, perché a Venezia comandano le idee di Andrea Tron e non quelle del Marchese Maffei, per dire due nomi, uno della città dominante e uno del territorio dominato. Grazie. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, do la parola alla professoressa Annoni per le repliche. Se lei prende il bastone del comando. E io devo prima di tutto ringraziare gli illustri colleghi di questi loro interventi, perché essi hanno posto l'accento su molti punti che avrebbero sicuramente meritato di essere trattati, e hanno chiarito alcuni aspetti che io avevo lasciato in ombra. Sono grata a loro per l'editorio, ma sono grata a loro soprattutto per me, per quello che essi mi hanno suggerito. Direi che queste note potrebbero essere ricondotte fondamentalmente a tre punti. L'uno, i rapporti, chiamiamoli Lombardia-Europa, e comunque l'inserimento della Lombardia nel quadro politico e culturale europeo contemporaneo al momento delle riforme, il problema dei precedenti, il problema della diversità del modo della trasformazione nel tempo. Una nota particolare a parte, quella del professor Bendiscioli sulla questione della scuola, che non è affatto una questione secondaria come noi stessi stiamo drammaticamente vivendo. E lo ringrazio di questo suo richiamo, anche se forse nella rapidità dell'esposizione è sfuggito, quando io parlai delle riforme di Maria Teresa accennai all'università di Pavia, che viene sottratta al Senato, ma accennai anche alla organizzazione di tutta una serie di centri di studio, soprattutto aperti alle nuove scienze, che avviene a Milano. Non feci allora esplicito riferimento né alle scuole palatine, i riferimenti purtroppo sono stati molto pochi, né alle scuole palatine, che costituirono quasi una seconda università in antagonismo con Pavia, né a quel collegio di Brera, dove non continuarono le scuole gesuitiche così come erano state impiantate, ma si divenne soprattutto il centro di studi scientifici e di studi artistici subito, cioè come, diciamo, alternativa di proposte all'approfondimento degli studi in un panorama che diventava molto più articolato e molto più ricco. Accennai solo alla formazione di questi nuovi centri di cultura. Ecco, l'avevo implicito e chiedo scusa di non averlo maggiormente specificato. Quanto agli altri punti, andando dal momento esaminato a ritroso, per quello che riguarda il momento illuminato, la conquista austriaca, ci ha detto il professor Vassicchi, ha aperto la Lombardia al vento illuministico che veniva dall'Europa. E questo è vero, per quanto non so fino a qual punto, già l'ho accennato, questa cultura lombarda tendeva già a rompere i propri confini, ha posto in primo piano, dice, i problemi della politica e dell'amministrazione. Sì, anche se noi non possiamo dimenticare che in fondo a Milano si è formato quel muratore di cui ci parlava Vandus. Quel muratore che appunto accennava, come io ricordavo senza farne il nome, alla felicità e al benessere dei sudditi come meta, che è lo stato della felicità, della felicità dei principi, per la felicità dei principi. Ora, è indubitato che la politica viennese suscita una vivacità di interessi nel campo pratico dell'azione che è nuovo, proprio in risposta ai problemi che essa pone. Le ricerche di Umberti non si comprendono se non nel clima entusiasta delle riforme. Però io vorrei ricordare anche, e l'avevo ricordato proprio quando vedevo la partecipazione in questo patriziato, quella inquietudine di spazi nuovi, di orizzonti nuovi, di nuove attività e di nuovi interessi che serpeggia nella società lombarda della prima metà del Settecento e che l'opera di Maria Teresa e Giuseppe II incanalarono in una costruttiva azione. Quanto al fatto del capovolgimento delle alleanze, che si rende possibile condurre a fondo l'azione già abbozzata da Carlo VI, credo che questa azione già in modo decisivo era cominciata prima ancora che il capovolgimento si attuasse. È tuttavia vero che, così come ha ricordato Cervani, la sicurezza sul fronte balcanico rende possibile una azione decisa nell'Istria, i ricordi dei nostri periodi triestini, vero Cervani, altrettanto la sicurezza sul fronte italiano rende più sicura, conseguenziale e spregiudicata, potremmo dire, però senza timori, l'azione di Maria Teresa. Ma a questo punto si inserisce l'altro problema, quello delle origini. Quello delle origini a cui ha accennato Vandusca parlandoci di Carlo VI, a cui accennava Schiera, ritornando ancora più indietro a Leopoldo, alle esperienze di Federico Guglielmo di Prussia, alla testimonianza della Svezia. Ora, quando noi risaliamo all'origine, di origine in origine, ci è facile arrivare ad Adamo ed Eva. Ma è anche vero che se noi non cerchiamo le prime sorgenti da cui derivano poi i grossi fiumi, ma possiamo comprendere la loro direzione e ma mi sembra che qui il discorso vada impostato in modo diverso, in questo fatto che quando parlavo di Maria Teresa mi dicevo in vent'anni ha compiuto un corso di 2 secoli. Si è parlato dell'esperienza della Francia, che è l'esempio tipico dell'evoluzione assolutistica, si è parlato della più recente esperienza della Prussia. Ebbene, sono in fondo, se noi guardiamo, delle esperienze isolate sul panorama europeo, dove lo Stato assoluto è fatto quasi dovunque da stati multinazionali o comunque da aggregazioni che difficilmente riescono ad amalgamarsi, Spagna, l'Austria e altri stati minori, e dove l'evoluzione ha invece subito tutta un ritmo molto diverso. Questo ha comportato che di fronte ad esigenze di bilancio, di fronte a volontà di affermazione di potere, i diversi stati fossero tentati dalla esperienza francese e invogliati a tentare di imitarla. Però mi sembra che queste prime esperienze abbiano una occasionalità e soprattutto una frammentarietà che dimostra da una parte una incompleta visione della, diciamo, della possibilità di azione che si ha soltanto se viene condotta in un certo raggio. Non si può fare una riforma lasciando immutato tutto il resto. E in fondo il tentativo del censimento di Carlo VI, ma anche allora quella famosa proposta di riforma e trattazione del Prato che dal 700, non ricordo in questo momento la data, Prato mi pare che sia, io guardo, non ho memoria, quindi non si cassa cadet, ma è un tentativo di nuova tassazione che si impone in Lombardia immediatamente dopo la guerra di successione spagnola e che viene insabbiata e che anch'essa preannuncia chiaramente questo futuro del catasto. Segnano, mi sembra, sistematicamente questa esigenza di rinnovamento, però non ancora una chiara coscienza dei mezzi e dei modi in cui sia possibile attuarlo. Rimangono così, dei colpi di mano, dei tentativi che non si inquadrano in una azione completa. E in questo senso può essere estremamente importante l'esperienza della Prussia, però essa parte da una base politico-sociale che è estremamente diversa e le problematiche che essa deve affrontare sono diverse, anche se i risultati a cui si arriverà, cioè la struttura nuova dello Stato centrato, assoluto e controllato dal sovrano, sarà fondamentalmente identico, i problemi da affrontare, i mezzi da mettere in atto sono, mi sembra, molto diversi. Ed era stata la premessa che io avevo posto all'inizio, non per difendermi, vero? Ti avevo posto all'inizio, quando dicevo, nella molteplicità del panorama politico della storia moderna, ogni nostra affermazione, ogni nostra ricerca non può se non individuare in un certo momento particolare e vedere le linee generali solo molto generali, senza la possibilità di partire dal particolare per arrivare all'universale con troppa facilità. Tuttavia, questi suggerimenti sono importanti. Quando Schiera parlava e poneva il problema perché noi abbiamo alla fine del 600, inizio del 700 una serie di programmi di rinnovamento e questi non giungono in porto, beh, qui ci sono molti specialisti che possono dare una risposta più precisa. Non so se sia esatto il dire vi sono delle condizioni esterne, cioè le guerre che combattute direttamente sugli stati rendono estremamente difficile l'attuare le riforme nel momento in cui gli eserciti passeggiano e occupano terre e le occupano sistematicamente. La Lombardia per 50 anni vede gli eserciti di tre stati, della Spagna, della Francia, dell'Austria, per non dire quelli dei Savoia, che giungono, si accampano, fanno elezioni, danno cariche, ottengono materiali, ma non sono sorretti da uno slancio ideale, chiamiamolo così, però in termini molto generici. Essi non hanno possibilità di far presa e di affermarsi. Forse questa mia affermazione parte da una condizione che è personale, ognuno sa che nell'ambito della storia noi parte in fondo da delle posizioni personali, ed è che la storia la fanno gli uomini e che gli uomini sono mossi innanzitutto da proprio mondo spirituale, sono volontà, convinzioni, slanci che portano a superare momenti difficili e che portano a perseverare in una trasformazione. Qui il principio del diritto naturale, il principio del giusnaturalismo, che era stato tanto valido nella difesa dei diritti acquisiti contro la monarchia assoluta, non è però sufficientemente valido a trasformare lo Stato o a dare la molla adesso per poter essere eseguito. Ma, ripeto, qui siamo di fronte ad una posizione di convinzioni personali. Le cause profonde della storia sono sempre difficili da individuare. Ho risposto un poco a tutti. Sì, c'è rimasto il vuoto del Lombardo di Venezia. Non era il mio compito. E sì, potrebbe essere interessante vedere la variazione tra la Venezia del Settecento, lo spazio Venezia del Settecento, dove si verifica un processo lemoinverso, i patriziati locali che non si arroccano a difesa, ma che chiedono la partecipazione al vertice, no? Che insistono per questa partecipazione al vertice. Se potrebbe essere interessante vedere questa situazione per rendersi conto di come essa ha reagito nel momento successivo, mi sembra però che da parte delle strutture generali, nel momento successivo, l'azione viene dall'alto tenendo poco conto di quelle che sono le azioni. L'applauso rinnova il ringraziamento di per se stesso, quindi chiudiamo credo con estrema puntualità i lavori della mattina, si riaprirà alle 15 con la relazione del professor Berengo. Come loro hanno visto, i costumi trentini non sono proprio tedeschi della puntualità assoluta, ma tendono ad avvicinarsi, ecco, e quindi anche oggi cominceremo con una puntualità, penso, abbastanza. Di nuovo grazie a tutti gli intervenuti.